Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Scuola, il ministro Azzolina in vista della ripresa dice no ad allarmismi e chiede più collaborazione, meno scontro politico, confermato anche il tempo pieno. A Colleferro restano in carcere 3 dei 4 arrestati per l'omicidio di Willy Montero, uno ai domiciliari. Vaccino stop temporaneo ai test sul vaccino Oxford Italia, una reazione avversa su 50.000 persone. Precipita la situazione sull'isola di Lesbo, in Grecia una serie di incendi distruggono il campo profughi, migliaia di migranti in fuga. Stati Uniti, shock nello Utah, la polizia spara su un 13enne autistico durante un intervento chiesto dalla madre. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno, il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano c'è l'informativa del ministro Azzolina sulla scuola, confermato tra l'altro anche il tempo pieno per quest'anno, ma in primo piano abbiamo anche la notizia dello stop temporaneo ai test sul vaccino che vede la partecipazione dell'Italia, il vaccino di Oxford. Anche l'incendio, il grave incendio che ha colpito l'isola di Lesbo in Grecia, in primo piano ci sono migliaia di migranti che sono in fuga in questo momento, ne parleremo tra poco. Dicevamo scuola, durante l'anno, ha detto la ministra Azzolina, saranno fatti dei test campioni anche sugli studenti, il rischio zero non esiste. Azzolina che poi ha chiesto durante la sua informativa maggiore collaborazione, meno scontro politico su questo tema. Con la riapertura delle scuole saranno necessari adattamenti, ci saranno nuove regole, ma nessuno vuole togliere il tempo pieno ai bambini, che potranno usare anche mense e palestre. Ad assicurarlo è la ministra dell'istruzione Azzolina, che dopo gli attacchi delle opposizioni difende l'operato del governo. Dall'inizio dell'anno l'esecutivo ha investito 7 miliardi nella scuola. Tutti gli istituti otterranno le forniture richieste, basta allarmismi anche sulle cattedre da assegnare, dice la ministra intervenendo alla Camera. Il governo ha lavorato in questi mesi nell'ottica di valorizzare ed ascoltare il contributo di tutti, rispondendo e dando sostanza ad un mandato parlamentare chiaro, far ripartire l'attività delle scuole in sicurezza. Sull'avvio del nuovo anno scolastico, Azzolina terrà anche una conferenza stampa nel pomeriggio con il premier Conte. Contro la ministra resta intanto all'attacco il centrodestra, con la Lega che ha presentato una mozione di sfiducia individuale nei suoi confronti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora, come detto, la notizia della sospensione dei test sul vaccino di Oxford AstraZeneca, che coinvolge anche l'azienda italiana IRBM di Podmezia. In un caso su 50.000 si è verificata una reazione avversa, fatto sapere l'azienda, per questo il vaccino non sarà somministrato ad altre persone, ma prosegue il monitoraggio sugli altri volontari. Sentiamo. Sospensione temporanea di tutti i test clinici. Questa è la decisione di AstraZeneca, uno dei colossi farmaceutici coinvolti nella messa a punto del vaccino anticoronavirus, dopo che uno dei volontari ha accusato una potenziale reazione avversa. Uno stop di routine viene sottolineato, che consente di esaminare il caso e rivedere i dati sulla sicurezza. Stop che arriva a pochi giorni dall'accordo della società con la Commissione europea. Il vaccino candidato numero uno su cui ha puntato l'Italia finora per avere le prime dosi alla fine dell'anno è sviluppato in collaborazione con l'Università di Oxford e l'IRBM di Pomezia. Si è presentato un quadro clinico avverso in uno solo dei 50.000 soggetti volontari su cui il vaccino è stato testato, sottolinea l'amministratore delegato dell'Istituto di Ricerca Piero Di Lorenzo. La sospensione è una precauzione standard che dimostra, nonostante l'emergenza, rigore e affidabilità dei dei test. Così, ospite di 24 Mattino, il microbiologo Andrea Crisanti. È abbastanza normale, fare un vaccino è una cosa complicata, è un processo molto complesso, molto lungo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca, ora restano in carcere 3 delle 4 persone arrestate per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di una rissa a Colleferro, come sapete, nella notte tra sabato e domenica. Ad uno dei 4 fermati invece il GIP ha concesso gli arresti domiciliari. Per la morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di origini capoverdiane, sabato notte a Colleferro, Roma, nel corso di una rissa, il GIP di Velletri ha convalidato gli arresti dei giorni scorsi per omicidio preterintenzionale. Restano in carcere i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, 26 e 24 anni, e Mario Picarelli, 22, mentre per Francesco Belleggia, 21 anni, il GIP ha concesso gli arresti domiciliari. Belleggia ha detto nell'interrogatorio di non aver preso parte attiva nella rissa, ma ci sarebbero testimoni convinti del contrario, cioè che proprio Belleggia avrebbe sferrato i colpi fatali. Anche i fratelli Bianchi hanno raccontato di aver fatto da paceri nella rissa, così il loro avvocato Massimiliano Pica a Uno Nessuno 100 Milan. Erano stati chiamati da due amici. Quando poi sono arrivati, i due fratelli Bianchi si sono avvicinati, avranno sbracciato, avranno dato qualche colpo, questo non so. A quel punto poi è finito tutto, perché due ragazzi hanno detto fermi, fermi, non sta succedendo nulla. Parte oggi intanto l'autopsia sul corpo di Willy. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora andiamo all'estero, iniziamo dalla grave situazione sull'isola di Lesbo in Grecia, dove diversi incendi hanno colpito il campo profughi di Moria. Migliaia di migranti sono fuggiti. Non ci sono feriti o vittime, ma molte persone, anche bambini, non sapranno dove dormire stasera a Lesbo, dove diversi incendi hanno distrutto parte del campo profughi di Moria, il più grande campo profughi d'Europa. Ed è proprio dall'Europa che è arrivato un primo messaggio di solidarietà dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che su Twitter ha promesso aiuti. Le immagini e le voci che arrivano dall'isola dell'Egeo mostrano colonne di persone che si coprono la bocca e scappano con i pochi stracci che possiedono per evitare le fiamme e i fumi tossici. Circa 13.000 persone vivono nel campo, 4 volte la capienza ufficiale. Nell'ultima settimana a Moria è stata imposta la quarantena dopo che un residente somalo è risultato positivo al coronavirus. In un primo momento sembrava che i roghi fossero frutto di una protesta, ma le autorità greche hanno smentito questa ipotesi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Negli Stati Uniti un nuovo fatto di cronaca getta ombre sull'operato della polizia. Nello Utah un ragazzino autistico di 13 anni è stato gravemente ferito dagli agenti chiamati a casa dalla madre per sedare una crisi proprio del ragazzo. Nuovo episodio shock negli Stati Uniti che vede coinvolta ancora la polizia, questa volta quella di Salt Lake City nello Utah. I fatti risalgono a venerdì scorso. Una donna ha raccontato ai media di aver chiamato il 911 per chiedere soccorso in quanto il figlio autistico di 13 anni aveva una crisi molto violenta e urlava. Lei era appena rientrata a casa dalla sua prima giornata di lavoro dopo più di un anno di disoccupazione e lo ha trovato in preda ad un violento attacco d'ansia da separazione. Poco dopo è arrivata la polizia. Due agenti hanno chiesto alla madre di aspettare fuori casa. Lei dice di averli sentiti gridare al teenager «buttati a terra» e di aver poi udito diversi colpi di pistola. Ora il ragazzo, che ha ferite ad una spalla, ad entrambe le caviglie, all'intestino e alla vescica, è ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono definite gravi. Non era armato, stava solo cercando di attirare l'attenzione, ha spiegato la madre. Il sindaco di Salt Lake City ha disposto ora un'inchiesta per fare chiarezza sull'accaduto. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero, la Bielorussia scivola sempre di più in una escalation del regime che smuove anche i moderati contro la reazione del presidente Lukashenko al potere da 26 anni. La Nobel Alexievich si schiera con l'opposizione mentre in queste ore si moltiplicano i fermi di polizia. Maria Kolesnikova è stata arrestata. Si trova alla CISO numero 1, la prigione nel centro della capitale Minsk, che già ha visto catalizzare nelle scorse settimane la protesta di migliaia di persone che di volta in volta hanno chiesto il rilascio degli arrestati. La carcerazione della 39enne musicista diventata leader della protesta antigovernativa è stata comunicata quasi 48 ore dalla sua sparizione nel centro della capitale. Portata da uomini dei servizi al confine con l'Ucraina, ha di fatto impedito la sua espulsione, facendo materialmente a pezzi il suo passaporto. Un'ondata repressiva che colpisce uno ad uno gli esponenti del comitato di coordinamento, cui risponde oggi anche la premio Nobel per la letteratura Svetlana Alexievich. Sulla pagina degli scrittori bielorussi avverte il presidente ormai screditato Aleksandr Lukashenko: li cacciate tutti all'estero o li arrestate, ma non è, dice, il comitato a ribellarsi. Ora è il paese che si ribella a voi. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Una notizia, un aggiornamento per quanto riguarda la scuola. Difficile per molte scuole rispettare la data del 14 settembre per la riapertura, lo ha detto poco fa il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli, che ha aggiunto: mancano banchi e aule e ad oggi non c'è una soluzione immediata. Ora andiamo al Festival del Cinema di Venezia. 10 minuti di applausi al termine della premiere mondiale di Notturno di Gianfranco Rosi, in gara per il Leone d'Oro. Il film è stato girato sui confini di Siria, Iraq e Libano e sarà oggi in sala. Sentiamo lo stesso Rosi al microfono di Marta Cagnola. È stato un processo lungo, difficile, perché incontravo un territorio sconosciuto. Però la sfida era anche di andare oltre, no? Io in tutti i miei film ho sempre un po' toccato la dimensione umana, quindi far sì che poi il racconto avesse una forza attraverso i personaggi, attraverso gli incontri. La cosa più difficile è stato incontrare le persone e avere la fiducia e dare la fiducia e ottenere la fiducia. Poi quando tiro fuori la macchina è per raccontare qualcosa che sia la sintesi estrema, no? della vita che sto cercando di cogliere davanti alla cinepresa. Hai girato in zone molto rischiose. Nelle marshland nel sud dell'Iraq, al confine con l'Iran, abbiamo evitato proprio per pochi secondi un rapimento, perché qualcuno ci ha avvisato che c'era una barca che si stava cercando. Quando ho chiesto al mio assistente, alle persone che mi accompagnavano, cosa sarebbe accaduto, dice: te probabilmente ti avrebbero portato via vivo, a noi ci avrebbero ucciso. Con queste persone ho un legame straordinario e senza di loro non sarei mai riuscito a girare quello che ho girato in tutti questi anni. 13:12, Effetto Giorno fa una piccola pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo con il presidente della IRBM di Pomezia, l'azienda italiana che partecipa al vaccino di Oxford, che oggi ha subito uno stop dei suoi test per una reazione avversa su 50.000 persone fino ad ora testate. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Colleferro: restano in carcere 3 dei 4 arrestati per l'omicidio di Willy, uno va ai domiciliari. Scuola: il ministro Azzolina chiede più collaborazione e meno scontro politico, confermato anche il tempo pieno. Giannelli dell'associazione Presidi: difficile rispettare la data del 14 settembre. Stop temporaneo ai test sul vaccino Oxford Italia per una reazione avversa a Effetto Giorno, il presidente della IRBM. Incendio sull'isola di Lesbo, migliaia di migranti in fuga dal campo profughi. Cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno e, come anticipato, è con noi il presidente della IRBM di Pomezia, Piero Di Lorenzo, benvenuto. Grazie dell'invito. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito, Di Lorenzo, a parlare della notizia di oggi, sicuramente sul fronte della lotta al Covid. e insomma una novità in attesa per quanto riguarda la creazione di un vaccino, perché la multinazionale AstraZeneca ha fatto sapere di avere momentaneamente sospeso i test clinici sul vaccino dopo che c'è stata una reazione avversa su uno dei partecipanti, che sono 55.000. Di Lorenzo, la prima cosa che le voglio chiedere è proprio questa: una reazione avversa può voler dire, immaginiamo, tante cose. Immagino anche che ci sia, come dire, non possa scendere in certi dettagli, però può essere una cosa epidermica, può essere invece una cosa più grave sull'organismo. No. Di cosa stiamo più o meno parlando? Allora, partiamo da un presupposto. Quando si fa la fase 1 o 2, la fase clinica di sperimentazione, si va su volontari sani. Sì. Per cui qualunque cosa accada è dipendente al 99% dal vaccino. Quando invece si passa alla fase 3, volutamente si fa su volontari che hanno già patologie, a volte anche gravi, perché bisogna vedere se quel vaccino si può inoculare a gente che ha dei problemi. Quindi è assolutamente prevedibile che possa accadere qualcosa. Tenga presente che adesso questo candidato vaccino è in sperimentazione su 50.000 persone, quindi su 50.000 persone c'è stato un caso avverso che potenzialmente potrebbe essere derivante dal vaccino, potenzialmente. Perché questa cosa è al vaglio di chi in questo momento? Per chiarire, ecco, agli ascoltatori come funziona la procedura scientifica della fase 3, che dà poi il via libera eventuale al vaccino. Chi è che ha fatto questa verifica? Questa è la prova provata che i test scientifici, i test clinici sul candidato vaccino vengono portati avanti con una severità e un rigore scientifico al di sopra di ogni sospetto. E in questo caso è previsto dai protocolli sanitari, è previsto che l'azienda comunichi all'ente regolatorio, in questo caso FDA negli Stati Uniti e EMA in Europa, comunichi la presenza di questo evento. C'è una commissione scientifica indipendente, sì, che sta proprio, e questa commissione scientifica, insomma, adesso deve analizzare questo fatto che è accaduto. Ma ci può dire qualche cosa di più sul fatto, sì, che è accaduto? Qualche, sì, elemento? Sì, sì, sì. È un diciamo un'infiammazione spinale. Questo intervento, che è normale, oserei dire, in una fase 3, in una sperimentazione di fase 3, ha fatto sì che volontariamente la capogruppo AstraZeneca abbia deciso non di sospendere la sperimentazione, che non è sospendibile, nel senso che lei c'ha 50.000 persone, sì, che devono essere monitorate naturalmente, che continuano ad essere monitorate. L'unica cosa che è stata sospesa, sì, è la somministrazione ad altre, no. L'arruolamento di altre persone, di altri volontari in due nuovi paesi, il Giappone e la Russia. Benissimo. Perché per fare un test allargato a livello mondiale, sì, per accorciare i tempi, si è appunto partiti anche su questi due paesi. Questo arruolamento, sì, è stato sospeso. Questo è quello che è avvenuto. Senta, e quali sono a questo punto gli esiti possibili? Il vaccino è già in produzione, le domando, perché sappiamo che per esempio tutti i paesi hanno, come dire, finanziato, autorizzato l'acquisto di dosi di vaccino anche prima, lo spieghiamo chiaramente, che termini la fase 3, per, come dire, portarsi avanti in caso di esito positivo. In che fase, cioè da questo punto di vista, cosa potrebbe succedere? Il vaccino potrebbe essere modificato o no? Non penso che sia un problema di modificare il vaccino. In questo caso, diciamo che è abbastanza frequente, e la commissione scientifica indipendente può analizzare questa cosa e dire: no, questa infiammazione non è dovuta al vaccino e quindi procedete tranquillamente. Questo ok potrebbe arrivare nel giro di una settimana piuttosto che di due mesi. È chiaro che se arriva nel giro di una settimana non crea nessun problema anche sulla tempistica, perché come giustamente diceva lei la produzione è stata già iniziata a rischio da qualche mese e per essere pronti entro la fine dell'anno già a somministrare i vaccini. E invece se la commissione, Dio non voglia, dovesse decidere che è successo veramente una cosa di una gravità inaudita per cui non c'è nessuna possibilità eccetera, allora si chiude la sperimentazione. Certo, molto chiaro, diciamo, molto chiaro. Allo Stato non siamo in questa situazione. Molto chiaro. Senta, prima di salutarci voglio chiederle di ricordarci che caratteristiche ha questo il vaccino di cui stiamo parlando e anche il ruolo che ha avuto IRBM che sta lavorando in collaborazione con altre organizzazioni internazionali, altre aziende. Il vaccino è di tipo vettoriale, vale a dire quando i cinesi, per dirle anche il nostro ruolo, quando i cinesi ai primi di gennaio hanno postato su internet il sequenziamento del gene della proteina spike, quella rossa, quella diciamo cattiva, e che copre il virus, e quindi è stato possibile studiare subito qual era il virus che si era che era venuto fuori. E gli scienziati dello Jenner Institute dell'Università di Oxford hanno sintetizzato quel gene, sì. E cioè lo hanno isolato e depotenziato, diciamo, e hanno e ci hanno chiamato. Loro conoscono questa famiglia dei coronavirus da 20 anni perché hanno già messo a punto il vaccino anti-MERS che è in sperimentazione di fase 2 in Arabia Saudita. Ci hanno chiamato perché noi abbiamo un expertise specifico per quanto riguarda l'adenovirus, che cioè è lo shuttle, il veicolo, il vettore che si carica all'interno questo gene della proteina spike che è stato da loro sintetizzato e depotenziato. E lo porta nell'organismo. Chiaro. E quindi noi siamo intervenuti per dare questa nostra expertise per mettere a punto il vaccino e produrre subito le dosi per le sperimentazioni cliniche. Va cosa bene. Che abbiamo fatto. Io la ringrazio, Piero Di Lorenzo, presidente della IRBM di Pomezia. Grazie per essere stato con noi, per averci dato queste chiarificazioni sul quanto accaduto, quindi test per quanto riguarda il vaccino Oxford Italia, diciamo sospeso, non sospeso, il test va avanti, è sospesa la somministrazione ad altre persone che era prevista, e nel giro di qualche giorno o settimana arriverà una risposta se i test andranno avanti positivamente o meno. Adesso torniamo a parlare di smart working, perché ci sono le novità degli ultimi giorni per quanto riguarda le misure del governo sul lavoro agile, la possibilità per chi avrà figli under 14 che dovessero incorrere in una quarantena per via di casi di contagio all'interno delle scuole, potrà ricorrere al lavoro agile o al congedo parentale al 50% dello stipendio in alternativa. Ma il punto è che tra poco più di un mese scade lo stato d'emergenza che ha fino ad oggi è stato il veicolo attraverso il quale poi lo smart working è entrato in tutte le aziende italiane. 4 milioni di lavoratori, si annuncia forse un bilanciamento, ce ne parla Anna Marino. Un'esperienza e un'accelerazione agile e necessaria che non potremo più dimenticare, anzi bisogna farne tesoro. E ora che con le dovute precauzioni ripartono le scuole in presenza e il 15 ottobre è il D-Day perché finisce lo smart working di emergenza, si rimodulano le regole per la pubblica amministrazione come per il privato. Certo, ci sarà il diritto allo smart working per chi ha figli a casa under 14 in quarantena, in alternativa al congedo straordinario retribuito al 50% per uno dei genitori, dall'accordo individuale sempre necessario all'intesa aziendale utile ma non obbligatoria, al trattamento economico non inferiore. Per chi vuole continuare ci sono esempi di aziende apripista che agevolano anche con misure in più, come spiega Marco Russomando, HR in una digital company come la banca Illimity. Limita in questo momento la sua capacity al 50% delle scrivanie. I colleghi rientreranno a rotazione, la negatività a un test sierologico e l'installazione e l'utilizzo dell'app Immuni. I colleghi continueranno a lavorare anche molto da casa. Un sistema di permessi retribuiti un'ora la mattina e un'ora il pomeriggio, al di là della ovvia pausa pranzo, per consentire alle persone di curarsi dei propri bimbi e ragazzi. E per la PA proprio in questi giorni si aprono i tavoli sullo smart working, obiettivo 50%, ma va ripensato, come spiega Florindo Oliverio, segretario nazionale FP-CGL, che vi parteciperà. L'esperienza è stata positiva, dall'altro lato però ha messo in evidenza anche che non tutto è smartabile, come si dice adesso, non tutto cioè è possibile fare in modalità agile. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dice 26 minuti, adesso cari ascoltatori prendiamo un attimo di fiato, facciamo una pausa diciamo dalle notizie più incalzanti e parliamo del Festival della Letteratura di Mantova che si apre oggi e ne parliamo con un nostro amico e collega Federico Taddia. Ciao Federico, intanto buongiorno. Ciao Alessio, ciao buongiorno. Che si trova, adesso ci dirà dove si trova, che ha deciso Federico Taddia, conduttore, Padre Eterni, domenica su Radio 24, ma insomma lo conoscete, di quest'anno diciamo inaugurare questo festival al quale parteciperai, tra l'altro parlando anche di un tuo libro, ed è una delle prime diciamo esperienze in cui si torna dal vivo in uno di questi festival, di arrivarci a piedi, Federico? Ti ho sentito titubante nel dirlo, sì, esatto, ho fatto questa scelta visto che vado a presentare un libro che parla di sostenibilità, ecco. Sembrava bello arrivare a Mantova in modo sostenibile, quindi sono partito da Pieve di Cento, che è il mio paese in provincia di Bologna, ieri, e mi sto incamminando verso Mantova, sono circa 90 chilometri. E niente, insomma, quindi 30 chilometri al giorno, non... 30 chilometri al giorno, ma bellissimi. Sto attraversando parti di pianura, anche perché ho trovato un'app che si chiama maps.me, è gratuita, quindi la possiamo pubblicizzare, che fa itinerari per pedoni, diciamo, utilizzando vie alternative, se cioè non ti fa fare le provinciali. Ma questa è utilissima perché tante volte capita che su Google Maps invece non trovi l'itinerario giusto per camminare. Vedi. E infatti invece sto facendo argini, sto attraversando campi, tutti insomma tracciati in cui si può andare, non sono luoghi privati, però appunto vedi il lato B dei comuni, dei paesi, della provincia, quindi è molto bello. E l'altra cosa che mi fa molto sorridere, sì, ovviamente, è che vabbè, non è un cammino ordinario, no? Dove la gente è abituata a vedere passare qualcuno con lo zaino, quindi ci sono i contadini. Sei tu e i contadini, praticamente, tu e i contadini. Tra l'altro devo dire che qua, questo tipo di imprese negli ultimi tempi va alla grande, ci sono tante persone che si stanno mettendo in gioco in questo modo, devo dire che io invidio sempre un po' sia il tempo che avete a disposizione, bravo, perché chi è incollato magari tante volte in città, insomma in un ufficio come capita a noi, non può farlo, ma anche il coraggio, ci vuole coraggio per fare, cioè per dire, insomma, anche superare un po' lo scetticismo, la gente dice ma guarda questo dove va, cosa si avventura a fare. Allora, sinceramente, l'impresa che sto facendo io non è forse un'impresa, ok, sono 30 km al giorno di pianura dove passi per... ci vuole il coraggio di stare ore e ore da solo, quello sì, però è anche una... cioè io quello che l'ho fatto non tanto per impresa fisica, no? Però tanto è una cosa secondo me molto carica anche di metafore, comunque in un tutti i festival che stanno partendo in queste settimane sono festival diversi da come li conosciamo solitamente, quindi insomma era bello arrivarci anche in modo diverso, è un modo per ripartire, no? Anche questo, il fatto di arrivarci con calma, poter fare ragionamenti su questo argomento, toccare anche, no? Visto che andiamo a parlare di clima e di ambiente, le cose poi le sto vedendo passo dopo passo nei fossi, nei campi, nei corsi d'acqua che incrociano. Diciamo, Federico, che a te poi è andata bene, perché partendo da Pieve di Cento arrivare a Mantova non era lontanissimo, se partivi da Bari era un altro discorso. Grazie Federico, l'appuntamento per quanto riguarda il Festival del Letteratura di Mantova è a partire da oggi. Il libro di Federico è Perché la Terra ha la febbre, scritto assieme ad Elisa Palazzi, che è una climatologa del CNR, così abbiamo detto tutti, insomma si torna così a vivere, a parlare anche di cultura, a leggere, a incontrarsi, perché no, dal vivo, e questo accadrà in questi giorni a Mantova. 13:30, piccolo break, torniamo tra poco, parleremo tra l'altro, ve lo anticipo, delle novità che per una via strana, che è la del decreto semplificazioni, arrivano invece dritte sul codice della strada, dagli autovelox alle biciclette. A tra poco, 349-238-6666. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Effetto giorno. Questi titoli di oggi. Scuola, il ministro Azzolina in vista della ripresa dice no ad allarmismi, rischio ridotto al minimo. Giannelli, associazione presidi, difficile rispettare la data del 14 settembre. Colleferro, restano in carcere 3 dei 4 arrestati per l'omicidio di Willy Montero, uno va ai domiciliari. Stop temporaneo ai test sul vaccino Oxford Italia per una reazione avversa su 50.000 persone. Stati Uniti, shock nello Utah, la polizia spara su un 13enne autistico durante un intervento richiesto dalla madre. Autovelox in città, multe e ciclisti, ecco come cambia il codice della strada, ne parliamo tra poco. minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666. Vedo che c'è già un certo fermento sulle novità che riguardano il codice della strada, l'abbiamo annunciato poco fa, ne parleremo tra poco. Tra l'altro durante la mattinata anche Gianluca Nicoletti ne ha parlato per quanto riguarda le biciclette, e sono naturalmente cose che vi agitano, lo vedo. Arriviamo subito, tra pochissimo, dopo il punto di Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Oggi è il giorno del Recovery Plan, il piano italiano per organizzare l'impiego dei 209 miliardi che l'Europa ha deciso di affidarci per far ripartire il paese. Si sa già che il governo presenterà soltanto alcune linee guida di metodo per scremare i tanti progetti. Ne sono già arrivati 660 tra quelli tirati fuori dai cassetti dei vari ministeri che palesemente hanno già dato il via all'assalto alla diligenza. La Francia ha già presentato all'Europa la sua bussola per acquisire i 100 miliardi che le spettano. Un documento snello presentato in fretta e nei tempi previsti. Lo stesso dovremmo fare noi, ma abbiamo le idee molto meno chiare, a cominciare dall'uso del MES, il fondo salva stati, che dovrebbe servire per spendere 37 miliardi per rimodernare la sanità. In realtà il piano sanitario è già fra quelli che dovrebbero essere abbinati al recovery fund, almeno così ha scelto il governo, ed è un modo per poter dire che i soldi del MES non serviranno, perché come è noto il MES non piace ai 5 Stelle, anche se Conte ha fatto finta di avere un'idea un po' più possibilista. Ma a questo punto è anche un modo per dire che non abbiamo abbastanza fantasia inventiva per investire proprio quei 37 miliardi su altro, magari per rendere il paese migliore. E allora, l'abbiamo anticipato, è con noi Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore. Maurizio, ben ritrovato, ciao. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, per parlare di queste novità che riguardano il codice della strada, dagli autovelox alle biciclette, novità che arrivano per una via un po' tortuosa, che è quella del decreto semplificazioni, la conversione del decreto semplificazioni, che insomma, a occhio e croce, Maurizio, non c'entrava tantissimo forse con col tema del codice della strada, no? No, non c'entrava tantissimo, tant'è che poi questa è una mini riforma, e il codice della strada è stato riformato l'ultima volta 10 anni fa, sono fallite altre riforme nelle ultime due legislature, adesso hanno calato una carta, evidentemente ci sono ragioni politiche, in particolare si vede che ha vinto il partito dei comuni. Ecco, sì, è un modo un po' strano, insomma, no? Spesso queste riforme si discutono tanto, si avviano degli iter parlamentari per delle riforme strutturali, poi in una legge che non c'entra nulla si inseriscono dei cambiamenti, delle modifiche, e di fatto, come dicevi tu, diventano proprio una vera e propria mini riforma del codice della strada. Quali sono le principali novità? Io accennavo agli autovelox, l'impiego in città, ma sì, anche per le biciclette ci sono novità importanti. Sì, allora per gli autovelox abbiamo abbattuto un tabù che ci eravamo dati 18 anni fa proprio per evitare che i comuni facessero cassa, quello dei controlli automatici di velocità in città. Ovviamente questa è una novità condivisibile dal punto di vista della sicurezza, perché la città è proprio l'ambiente in cui ci sono stati i maggiori problemi di sicurezza, la mortalità è calata molto meno in città che altrove, e oltretutto ci prepariamo ad avere città più popolari di biciclette e di monopattini, proprio perché sono state sdoganate alcune cose, tra circolazione contromano in alcune circostanze, poi le corsie ciclabili, che sono una sorta di territorio protetto ma non riservato, e rischiano di diventare una terra di nessuno, perché noi ci siamo dati adesso delle regole che saranno anche difficilmente rispettabili. La verità è che questo diluvio, questa grandinata di regole sarebbe decisamente inutile se tutti, e dico tutti, quindi anche chi va in bici e chi va in monopattino usassimo il buon senso. Ecco, purtroppo quindi, questo non c'è, cioè, ci affidiamo alle regole, il problema è che mancheranno i vigili per applicarle. Ecco, questo è un problema, però è giusto ricordarlo, perché effettivamente ogni volta che parliamo di questo argomento ce ne accorgiamo, insomma, scatta subito la rissa tra gli automobilisti, i ciclisti, i pedoni contro i monopattini. Non ha senso, se come dici tu tutti usassero nel rispetto delle regole anche un po' di buon senso, potremmo tranquillamente condividere la strada, come poi accade in tante situazioni. Senti, però, riprendendo un attimo gli argomenti che hai citato, quello dell'autovelox, dicevi, è un tabù che cade dopo 18 anni, cioè spieghiamo bene il punto. Fino ad oggi gli autovelox potevano stare su alcune strade di grande circolazione, adesso invece entrano in qualunque strada cittadina? Sì, però sempre sotto il controllo prefettizio, cioè come cade sulle strade extraurbane dal 2002, potranno essere piazzate queste postazioni permanenti, ma laddove ci sia l'ok del prefetto, e questo ok deve avvenire dopo che la polizia stradale, quindi non la polizia locale ma la stradale, che non ha interesse, diciamo, agli incassi, fa un'istruttoria. Poi, una valutazione sul... Sì, sì. Esatto, su quanti incidenti ci sono, su quanto è difficile fermare i trasgressori, eccetera eccetera. Dobbiamo dire che questo sistema non ha funzionato benissimo in questi 18 anni, perché ci sono stati abusi e irregolarità un po' dappertutto, quindi non illudiamoci, però almeno c'è un controllo, un peso, un contrappeso. Dove invece non c'è peso e contrappeso è sulle ZTL, le zone a traffico limitato, perché lì è stata votata una abolizione di tutte le regole, di tutti i paletti che il Ministero delle Infrastrutture aveva messo negli anni. Lì ogni zona a traffico limitato attualmente va autorizzata dal Ministero, che deve anche andare a sindacare su dove piazzare le telecamere, come sul fatto che ci sia la possibilità di dare una via di fuga a chi sta per infilarsi inavvertitamente in questa ZTL, e non sa eccetera, più come eccetera. Uscirne, perché se uno si ritrova in un imbocco, poi hai voglia a frenare, cosa fai? Retromarcia, ma non sempre è possibile, a volte manca la segnaletica. Quindi anche questo aspetto, però, chiariamolo bene, dello ZTL, Maurizio Caprino. Cosa cambia rispetto ad oggi? Cambia che i comuni potranno fare tutto a loro discrezione, quindi anche in maniera ingannevole, furbesca o semplicemente ignorante. Sempre con telecamere, automatismi per far scattare eventuali contravvenzioni. Sì, ecco, anche qui le telecamere andrebbero omologate o approvate dal Ministero, adesso invece diventa tutto libero, e quindi anche telecamere di scarsa qualità che magari grazieranno qualcuno, puniranno ingiustamente qualcun altro. Insomma, vedo una giungla e sinceramente non avevamo bisogno. È vero che il Ministero era ingolfato di richieste di zone a traffico limitato, quindi non poteva stare dietro a tutto, aveva tempi di risposta molto lunghi, però oggettivamente così andiamo a ingolfare altri uffici, per esempio quelli del giudice di pace per i ricorsi, non mi sembra una bella pensata. Insomma, il rischio, se capisco bene, è quello che qualcuno si vedranno arrivare delle contravvenzioni, soprattutto per quanto riguarda lo ZTL, che sono, diciamo, che nascono da automatismi, telecamere che possono non essere, diciamo, di uno standard qualitativo tale per cui uno può star tranquillo. Sì. Ci può essere un errore, sì, per esempio. E non solo questo, anche come vengono piazzate, perché per esempio può succedere, per esempio mettete un gommista che sta sul limite della ZTL, e questo gommista muove le auto dei propri clienti anche sul marciapiede per fare la propria attività. Se questo accade sotto una telecamera, magari qualcuno si trova multato, anche perché il gommista sta facendo manovra. Non sto scherzando, succede anche adesso che c'è il vaglio del Ministero, è successo in qualche caso particolare, adesso potrà succedere molte più volte, e appunto la cosa andrà a ingolfare i giudici di pace. Non se ne sentiva assolutamente la necessità, ecco, tra l'altro sì. I comuni avranno anche meno controllo proprio nel decidere se e dove e con quali modalità istituire questa zona a traffico limitato. Quindi, insomma, troppa discrezionalità, troppe anche pressioni locali, non è solo una questione di preparazione dei tecnici, ma è soprattutto una questione di pressioni locali, di potentati. Il Ministero ne era un po' al di sopra, insomma, di queste questioni locali, e adesso rimaniamo tutti in balia proprio di esse. Un'altra novità, Maurizio Caprino, riguarda le biciclette, con l'introduzione delle cosiddette strade ciclabili, che sono, se abbiamo capito bene, diverse dalle piste ciclabili, sono delle strade normali dove si ritroverà circolare però tutti, auto, moto e bici con limite di 30 km all'ora, dove la priorità sono le bici. A Milano si sta sperimentando, il comune si era, aveva investito molto su questo dopo l'emergenza coronavirus per questa nuova mobilità e creando appunto corsie nelle quali la bici ha la priorità. E come dovrebbe funzionare questa cosa? Ma onestamente funzionerà sempre con la legge del più forte, al di là di come dovrebbe funzionare. Le regole che ci sono su questa priorità in realtà saranno poco rispettabili in tantissimi contesti urbani, perché abbiamo già strade molto strette, centri storici, abusivismo edilizio, insomma, e abbiamo già una circolazione molto caotica, e noi di fronte alla circolazione caotica ci incattiviamo, sia che siamo ciclisti, automobilisti, monopattinisti, pedoni, sì. Quindi in questo caos alla fine succederà che queste regole non saranno rispettate, saranno largamente disattese, ma da tutti intendo, non ci saranno controlli perché occorrono vigili in carne ed ossa e non se ne può assumere, quindi queste regole le applicheremo soltanto in caso di incidente. Se succede un incidente si ricostruirà più o meno l'accaduto e arriverà e fioccheranno sanzioni, ma a valle di un incidente. Purtroppo è la cosa peggiore, ma... Hai disegnato uno scenario tragico, realistico, ma tragico, ma diciamo per dirla in pochi secondi, però queste strade ciclabili che cosa hanno di diverso dalle corsie ciclabili? Niente, le biciclette hanno totale priorità, quindi la precedenza va data anche a loro anche quando si stanno immettendo su questa strada, quindi bisogna camminare, bisogna marciare con veicoli a motore con assoluta cautela, quindi non solo a un massimo di 30 all'ora, ma anche stando attenti veramente a qualsiasi cosa accada. Poi ci sono anche delle corsie ciclabili che non sono strade ciclabili, ma corsie ciclabili in cui si potrà andare anche contromano a talune condizioni, però poi queste corsie ciclabili a loro volta potranno essere invase anche dai veicoli a motori laddove non ci sia spazio, allora vai a valutare se c'è spazio o non c'è spazio. Insomma, è una norma abbastanza cervellotica, figlia di una situazione comunque caotica, chiaro, che è quella che ho descritto, e sarebbe meglio appunto se tutti usassimo il buon senso, insomma non ci sarebbe bisogno di una regolamentazione così minuta e ripeto poi nei fatti inapplicabile in via preventiva perché i vigili non ci sono. Grazie Maurizio Caprino, grazie, ci fermiamo, torniamo tra un attimo. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.